24 Mattino con Giulia Crivelli. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a 24 Mattino. Questa iniziamo con la rassegna stampa, poi avremo dei quotidiani italiani e poi avremo un secondo spazio dopo il GR delle 8. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Sapete, il Sole 24 Ore del lunedì è un numero che viene chiuso questa settimana tutta particolare, è stato chiuso sabato, ma è appunto un settimanale, quindi c'è un approfondimento che del resto avete sentito anche nel GR sul Superbonus. Questa è l'apertura: il Superbonus cerca già il rilancio tra modifiche 2021 e cessione crediti. Poi naturalmente ci sono anche alcune novità della manovra che, come avete sentito, è stata approvata alla Camera e dovrebbe essere approvata oggi al Senato, ma su quello poi naturalmente potete restare aggiornati seguendo i GR o anche seguendo il sito del Sole 24 Ore. Molto interessante da questo numero del lunedì anche l'approfondimento che poi trovate a pagina 7 di Marta Casadei, che guarda molto lontano, visto che insomma quest'anno sta finendo, ce lo vogliamo lasciare alle spalle, ma con un po' di speranza. Qui addirittura guardiamo al 2050, perché la cosiddetta Italia Green e il lavoro di tutta questa svolta ecologica potrebbe creare 1 milione di posti di lavoro. In ogni caso, sulla questione del Superbonus, che è una delle misure più importanti, viene chiamato Superbonus perché è del 110%, trovate tutto alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di oggi. Il decollo del 110% alla prova dei fatti tra modifiche 2021 e cessione dei crediti. E poi, prima di lasciarci subito un attimo per un aggiornamento sulla viabilità, importante in una giornata come oggi, arrivando qui davvero mi è venuto in mente Marco Valdo, un libro che noi leggevamo a scuola, è un libro del 1963 di Italo Calvino, è diviso in capitoli, ogni capitolo riguarda una stagione e ce n'è uno che si chiama La città nella neve ed è appunto Marco Valdo il personaggio di questi racconti, il protagonista di questi racconti, che si risveglia in una città coperta di neve. Ma quindi, a maggior ragione appunto, siccome abbiamo sentito ha nevicato in tutta Italia, non certo solo a Milano, la viabilità, l'aggiornamento sulla viabilità è importante. Vi segnalo però, prima dell'aggiornamento, che come ogni lunedì con il Sole 24 Ore l'esperto risponde, la guida rapida dove appunto gli esperti del Sole 24 Ore rispondono alle domande dei lettori o dei navigatori del sito, in particolare in questo numero Covid e agevolazioni e poi bonus per i centri storici. Ma sentiamo cosa succede sulle strade. E rieccoci. E siccome ieri ci siamo sentiti, chi era sintonizzato per la rassegna stampa dei quotidiani italiani, ma non c'erano molte notizie, era il V-Day, quindi non siamo riusciti ad arrivare alla domenica del Sole 24 Ore e al breviario di Gianfranco Ravasi. Ma siccome mi aveva molto colpito una frase di Charlie Chaplin, in realtà ve la leggo e poi vi leggo appunto le parole di Gianfranco Ravasi, perché si intitola questo breviario Teatro, e la citazione di Charlie Chaplin è questa: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fa quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca priva di applausi. E scriveva Ravasi. A fare questa riflessione era uno che di spettacolo si intendeva. Era il grande Charlie Chaplin, creatore dell'indimenticabile omino con baffetti e bombetta, Charlot, capace di unire in sé ironia e dignità, libertà e sofferenza, simbolo della nobiltà delle vittime e dei deboli. Ora, il motivo letterario, ma non solo, della vita come teatro, ove ognuno ha una sua parte da recitare, ma dove non sono ammesse prove iniziali o repliche, è classico. Terribile è il Macbeth shakespeariano. La vita non è che un'ombra in cammino, un povero attore che si agita e si pavoneggia per un'ora sul palcoscenico e del quale poi non si sa più nulla. Eppure la ricompensa non è tanto negli applausi finali, forse assenti, ma nella passione con cui si è vissuta la propria parte, nell'impegno severo agendo e parlando, così come lo spirito dettava, il cuore suggeriva e la coscienza confermava. E siccome questa parola passione, sapete, anche una dei claim di Radio 24, insomma, mi sembra particolarmente adatto. Ma passiamo ai quotidiani italiani. Il Corriere della Sera corsa a vaccinare gli italiani. La precisazione un po' su appunto questo V-Day che ci ha un po' forse tutti colti di sorpresa, perché chiamare V-Day il giorno in cui erano disponibili solo tra virgolette 9.750 dosi ovviamente ha fatto interrogare molti su quali sono i prossimi passi, e da qui appunto altre dichiarazioni del commissario straordinario Arcuri che dice puntiamo all'80% in autunno. La foto, come per molti altri quotidiani, è quella di Claudia Livernini, 29 anni, infermiera allo Spallanzani di Roma, che è stata la prima ieri a ricevere il vaccino. Vi segnalo, e comunque ritroverete Paolo Mieli poi dal 7 di gennaio con Simone Spezia, quando 24 Mattino tornerà alla sua formula originale, vi segnalo l'articolo di Paolo Mieli sulla legge sul voto. Avete sentito nel GR si ricomincia a parlare di crisi di governo, si è sentito dire, ma sono tutti retroscena, che nel caso di una crisi di governo bisognerebbe andare a elezioni anticipate. Ecco, con quale legge? Ripensare la legge sul voto, alternanze virtuose, l'editoriale di Paolo Mieli. La Repubblica, vaccino, comincia la ripartenza. In questo caso molta enfasi viene data alle dichiarazioni della sottosegretaria al Ministero della Salute Zampa, che dice i dipendenti pubblici devono farlo. Anche in questo caso la foto di prima pagina è di Claudia Livernini, appunto ieri, prima a essere vaccinata. Con Repubblica, come ogni lunedì, in edicola il supplemento Affari e Finanza, 21, dove l'uno è in realtà una siringa, l'anno della rinascita, con tantissimi approfondimenti su vari temi e a cura di vari commentatori. La Stampa, virgolettato di Speranza, che ieri avevamo letto in una specie di colloquio, non una vera e propria intervista, un colloquio riportato su Repubblica, sul quale Repubblica apriva, e oggi Speranza parla con la Stampa. In arrivo anche le dosi di AstraZeneca, non è vero che ne abbiamo meno di altri paesi. Nel recovery esigo più fondi per la sanità. Il virgolettato, entro fine marzo 13 milioni di vaccinati. Poi vi segnalo un'analisi di Antonella Viola, che è una delle scienziate che più abbiamo visto in televisione in questi mesi. Il titolo di questo suo intervento, il vero primato della scienza. Il Messaggero, vaccini caccia nuove scorte, quindi torna al tema del fatto che il vaccino di Pfizer-BioNTech, il primo a essere arrivato, quello che è più complicato dal punto di vista della distribuzione, perché deve essere mantenuta la catena del freddo, è un vaccino che deve essere conservato a temperature molto basse, e poi c'è anche il tema della doppia somministrazione, che deve avvenire entro un certo intervallo, ma ce ne sono altri, da qui il plurale. Comincia dallo Spallanzani la campagna per raggiungere l'immunità a settembre. L'Italia ha bisogno di più dosi, tratta con Pfizer e Moderna per altri 18 milioni di fiale. In prima pagina, per così anche un po' alleggerire questa notizia, che poi trovate anche su altri giornali e naturalmente sui giornali britannici, sapete che Harry, il secondogenito del principe Carlo, che è l'erede al trono, l'eterno erede al trono, e sua moglie Meghan avrebbero dovuto con il 2021 fare una vera, quella che i britannici avevano battezzato Megxit, cioè veramente rinunciare a qualsiasi privilegio della loro condizione di membri della famiglia reale. Hanno ripensato e resteranno reali per altri 12 mesi. Il giorno, l'Italia si vaccina e torna a sperare. In questo caso la foto è quella di De Luca, che avete visto, Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania, 71 anni, hanno così un po' riassunto, salta la coda e fa il vaccino, lui ha riferito, ha dato il buon esempio, però è subito scoppiata la polemica. È una vicenda non chiarissima nei contorni, perché pare che in campagna non ci fosse comunque un elenco preciso di tutte le persone che dovevano ricevere il vaccino, quindi perché no, il presidente della regione, come a un politico comunque di lunga esperienza come De Luca, non abbia potuto considerare quante polemiche avrebbe scatenato questo gesto, anche perché prima di entrare nell'ospedale dove si è fatto vaccinare, aveva criticato la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale, quindi però insomma così è andata e tante critiche sono arrivate. Il giornale furbetto del vaccino De Luca salta la fila, eccolo qua, casta sanitaria, è iniziata la profilassi ma il governatore campano è un caso. Il Fatto Quotidiano, vaccini partiti, col via libera a Oxford ce ne sarà per tutti. Perché? Perché questa idea di Oxford? Perché c'è questo appunto atteso via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al vaccino di Moderna e anche a quello di AstraZeneca. Poi, richiamato in prima pagina, ve lo segnalo perché lo avremo poi ospite alle 8:30, appunto nella seconda parte di 24 mattino, un'intervista a Brunello Cucinelli, che in realtà, come purtroppo a volte capita, viene definito Cucinelli, con quindi un totale di 3 C, in realtà sono solo 2, ma il titolo dell'intervista di Antonello Caporale, che poi trovate a pagina 6 del Fatto, ora solidarietà per il Kashmir è troppo presto. Brunello Cucinelli è il fondatore appunto dell'omonima azienda specializzata in Kashmir, ma fa anche molto altro, che appunto dice, poi racconterà anche a noi come ha vissuto questo 2020 e come affronta il 2021. La Verità, Arcuri dai numeri e sono sbagliati, la passerella dei vaccini. Questo fa riferimento a un'intervista che ieri Arcuri ha concesso al Corriere della Sera e a domanda dell'intervistatrice Monica Guerzoni perché in Italia 9.750 dosi e in Germania 150.000, ha risposto, o almeno questa era la risposta riportata dal Corriere della Sera, che era tutto fatto in proporzione. Allora, poiché in Italia siamo 60 milioni, in Germania 83,2 secondo il censimento del 2019, capite che questi numeri non bastano. Non era una spiegazione valida, poi sono state date altre spiegazioni. Intanto comunque ci sono i nuovi numeri, la campagna di immunizzazione, scrive La Verità, comincia male, il commissario dice un'enormità, le fiale sono in proporzione agli abitanti, e da qui appunto questa contestazione sul numero, sui numeri che lui ha liquidato poi nella giornata di ieri con non è il momento delle polemiche, i numeri non sono polemiche per quanto per quello che penso io. Comunque insomma vedremo la prossima, questa settimana, quante ne arriveranno, quella successiva, se arriveranno altri vaccini, stiamo tutti a guardare, è un tema che appunto ci riguarda tutti, non è polemica. Libero, poche dosi, ci vorrà tempo, la graduatoria di chi sarà chiamato a vaccinarsi e un interessante approfondimento che trovate a pagina 2, perché Pietro Senaldi e i giornalisti di Libero si sono rivolti al professor Corrao dell'Università Bicocca, che sta elaborando per il governo la formula che determinerà la classifica o comunque la graduatoria, l'ordine in cui le persone che abitano le varie regioni saranno appunto chiamate per il vaccino. Le regioni avviseranno i cittadini quando toccherà a loro. Vi segnalo anche, mi sono stampata anche la prima pagina del Mattino, in 3 mesi ospedali sicuri, e questo è quello che dice il direttore dell'Agenzia del Farmaco, e anche in questo caso entro il settembre sarà protetto il 70% degli italiani, avete sentito Arcuri dire l'80%, in ogni caso insomma siccome l'immunità di gregge in generale si ritiene raggiunta quando il 70-80% delle persone sono vaccinate, sarebbero sicuramente 2 percentuali auspicabili. Domani il quotidiano diretto da Stefano Feltri, 2 articoli come sempre in prima pagina, uno di Giorgia Serughetti, filosofa, le nuove code per il pane sono un problema anche politico, pandemia e disagio sociale, e poi un approfondimento secondo me interessante comunque di Francesca De Benedetti, il fatto che con le eccezioni che abbiamo sentito l'inizio della vaccinazione sia stato nello stesso giorno ieri per tutti i paesi europei, il primo giorno per quasi tutti, il vaccino riunifica l'Europa che il virus aveva spaccato. E noi ci lasciamo però un attimo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Siccome fino al 7 gennaio non avremo la nostra finestra Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, giusto qualche prima pagina di quotidiano straniero. Le Figaro primi vaccini, prime speranze, quindi vedete appunto questa idea del vaccino che è arrivato in tutta Europa nello stesso giorno. El País, la Spagna cerca con il vaccino di vedere il principio della fine della pandemia. In questo caso la prima a ricevere il vaccino in Germania, in Spagna, è stata Araceli Hidalgo, e la trovate sulla prima pagina di El País, 96 anni. Poi anche un quotidiano britannico, non tra i più diciamo autorevoli, però allora in cui ho scaricato le prime pagine era l'unico disponibile, il Daily Mail, che parla del, come abbiamo letto anche sui giornali, di questa approvazione imminente per il vaccino di Oxford, e poi del fatto che nel Regno Unito si stia organizzando un army, cioè proprio un esercito di 10.000 volontari che aiutino a vaccinare, a distribuire queste dosi, e ci saranno hundreds, così dice il Daily Mail, quindi centinaia di pop-up centers in poche settimane. La Bild, anche in questo caso non il più autorevole dei quotidiani tedeschi, ma di gran lunga il più diffuso, e parla qui a un'intervista a Immo Kramer, che è la persona che in Germania si è occupata appunto del piano di distribuzione dei vaccini. E anche qui le foto, perché come spiega Tagesspiegel, di Alten zuerst, prima di tutto gli anziani sono stati anche in Germania i primi a ricevere il vaccino, ancora prima degli operatori sanitari. Ma adesso torniamo ai quotidiani italiani e torniamo al Sole 24 Ore, perché all'interno del Sole 24 Ore del lunedì c'è un interessantissimo approfondimento sul sistema universitario e le novità della manovra. Trovate a pagina 6, una pagina a cura di Eugenio Bruno, con il Covid più iscritti a biotech e design. E poi le novità appunto contenute nella manovra: la proroga degli sconti su tasse e borse che nel 2020 hanno fatto salire le iscrizioni, si sommano 15 milioni per i fuorisede degli atenei statali e 5 per le università private. E poi vi dicevo l'approfondimento di Marta Casadei sull'Italia, possiamo definire l'Italia senza CO2, cioè quella con zero o quasi emissioni, che appunto avremo tra un bel po' di anni, però 1 milione di posti di lavoro in più. L'Europa accelera verso il 2030 con un taglio del 55% alle emissioni. Nel 2050, quindi guardiamo veramente, cerchiamo di avere uno sguardo veramente un po' lungo, un saldo positivo di 5 milioni di posizioni, 11 milioni create, 6 perse, tirano energia e edilizia. E poi, visto che in questi giorni si è parlato molto anche di Brexit, di questo accordo raggiunto all'ultimo momento per evitare una vera e propria hard Brexit, cioè un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo, nella sezione norme e tributi comunque ci sono anche tutte le prime conseguenze alle quali bisogna guardare, per esempio dal punto di vista fiscale, perché naturalmente il Regno Unito già all'interno dell'Unione Europea, lo sappiamo, non esiste un'armonia di leggi e men che meno di trattamenti fiscali. Però per esempio appunto in vista della Brexit, Matteo Balzanelli e Massimo Sirri raccontano: Brexit, il rappresentante fiscale dribbla gli effetti IVA più pesanti. E sulla questione De Luca, vabbè, la trovate su tutti i giornali, però a pagina 9 del Corriere, oltre a questo, appunto questo tema, De Luca si vaccina e polemica, salta la fila, c'è un'intervista interessante di Marco Cremonesi al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, perché sapete, sono giorni ormai, sono settimane che il Veneto ha i dati più preoccupanti sul numero di contagi, sul numero di decessi, sul tasso di positività, e qui Zaia cerca appunto di spiegare questa anomalia. In Veneto tanti casi, ma qui facciamo migliaia di tamponi, e poi con l'immunità ci sarà un passaporto sanitario. Dice a proposito di De Luca: ieri sono partiti i vaccini, lei si è vaccinato come il governatore campano De Luca? Io certamente mi vaccinerò, ma soltanto quando arriverà il mio turno, perché ogni vaccino che non arriva a chi ne ha più bisogno è un'opportunità persa. Ho detto ai miei direttori generali di non vaccinarsi, perché i vaccini nella prima fase servono per chi sta nelle terapie intensive, non per chi sta in ufficio. Al momento in Veneto, di queste famose 9.750 dosi arrivate per l'Italia nei giorni scorsi e sappiamo in distribuzione inoculate ieri, ne sono arrivati in Veneto 875, ma quando ce ne daranno altre noi siamo prontissimi, abbiamo una macchina da guerra vaccinale. E poi, per non parlare solo appunto di Covid, di vaccinazione, anche perché, lo ripeto sempre, avrete tutte le gli aggiornamenti necessari durante la giornata, seguendo i GR di Radio 24, sempre sul Corriere, una bella storia raccontata da Francesco Battistini. Giorgi, principessa dell'acqua che disseta al Burkina Faso, è una modella. Giorgi Badiel è cresciuta in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, è stata Miss Africa nel 2004, ha poi fatto la modella e adesso si è dedicata a costruire pozzi appunto per l'acqua potabile. Chi è stato in quei paesi, o comunque chi conosce qualcosa di questi paesi, sa, ed è incredibile pensare, no, anche alla facilità con la quale noi usiamo l'acqua, aprendo un rubinetto, abbiamo anche il bonus rubinetti nella finanziaria, e anche alla quantità di acqua che sprechiamo, naturalmente, che in Burkina Faso, come in tantissimi altri paesi, le donne, soprattutto perché sono le donne a fare questo, fanno chilometri e chilometri e chilometri solo per arrivare a un pozzo d'acqua, caricarsi sulla testa un recipiente con l'acqua e portarlo nel loro villaggio. Poi il Corriere della Sera ieri abbiamo citato questo inizio di approfondimenti del Corriere della Sera, si chiama Orizzonti 2021, ieri presentato da Ferruccio De Bortoli. Oggi c'è una seconda parte e vi segnalo in particolare l'intervento di Alberto Mantovani, immunologo, che spero di avere anche ospite qui a 24 Mattino nei prossimi giorni, e che in questo intervento, intitolato Umiltà e condivisione dei saperi, i concetti chiave per risollevarci, spiega, è direttore scientifico dell'Humanitas, spiega i passi avanti compiuti nel 2020, anche grazie agli errori, perché così procede la scienza, servono finanziamenti per i giovani nella ricerca, ma non ne vedo traccia nel recovery plan. E poi c'è un interessante schema, lo trovate a pagina 3 di questo inserto del Corriere della Sera, proprio sui vaccini, l'importanza dei vaccini, il valore della ricerca, il rapporto tra PRIL e spesa in ricerca e sviluppo, e sono naturalmente dati che per quanto riguarda l'Italia non fanno proprio sorridere. Ricordo più approfondito di Giorgio Galli, che è scomparso ieri a 92 anni, è stato per tantissimi anni docente alla Statale di Milano, politologo. Il ricordo più approfondito appunto lo trovate sul Corriere della Sera di Antonio Carioti, pagina 37. Giorgio Galli, l'Italia bloccata, la scomparsa dello studioso che definì il nostro sistema politico un bipartitismo imperfetto, perché appunto blocca forse potremmo dire il paese. Dalla Repubblica invece Rosalba Castelletti, inviata a Mosca, ci racconta raffica di leggi antidissenso, il Cremlino vuole blindare le elezioni, stretta sull'opposizione in vista delle legislative 2021 e dell'insediamento di Joe Biden negli Stati Uniti, che sapete tutti pensano, ma dobbiamo vederle ancora, le prime mosse di Joe Biden, presidente eletto, fino al 20 gennaio, quando si insedierà ufficialmente, le prime mosse di Joe Biden appunto in fatto di politica estera. Sicuramente il Cremlino vedeva un alleato più stretto in Donald Trump. E a proposito, naturalmente su tutti i giornali trovate ancora la notizia che Donald Trump si era rifiutato di o comunque procrastinava la firma a questa stimulus bill da 900 miliardi di dollari, che poi in realtà la firma, come avete sentito nel servizio di Marco Valsania, è arrivata, quindi almeno quello insomma si è sbloccato. Era da aprile che negli Stati Uniti, con la precedente stimulus bill da 2,3 miliardi, non venivano varati degli aiuti per l'emergenza, più che ancora prima che sanitaria, perché invece sappiamo che il piano vaccini lì, grazie al piano Operation Warp Speed voluto e orchestrato da Donald Trump, quindi l'emergenza sanitaria o comunque la vaccinazione è già iniziata, oltre 1 milione di persone già vaccinate negli Stati Uniti, resta invece e anzi si aggrava l'emergenza economica. Molto interessante questa storia che racconta invece Anais Ginori da Parigi, sempre su Repubblica. Inventate nuove guerre. La Francia recluta gli scrittori di fantascienza. Detta così suona strano, in realtà cosa è successo? Che il Ministero della Difesa francese ha ingaggiato autori e disegnatori con una missione: creare minacce spaventose e preparare quindi gli strateghi a combatterle. E chissà se forse se questo fosse stato chiesto magari nel 2018 o nel 2019 qualcuno avrebbe potuto immaginare la pandemia. Un altro approfondimento, anche questo un grande tema, è uno dei tantissimi messo un po' in, così, in congelato nel 2020 dalla pandemia, quello del biotestamento e della legge sul fine vita in Italia. E a pagina 25 della Repubblica: i 62.000 biotestamenti d'Italia, ma farlo resta una corsa a ostacoli. Sapete, questa legge che è in vigore da 3 anni, che permette di indicare come si vuole essere curati nel fine vita, ma soltanto pochi comuni hanno poi i registri per questi biotestamenti. E c'è un'intervista di Maria Novella De Luca a Donatella Ricci, insegnante, che dice: ho visto mio marito morire e come lui voglio decidere in che modo arrivarci. Dalla Stampa invece un approfondimento su abbiamo parlato del Burkina Faso, ma non è certo l'unico paese africano di cui ci occupiamo o non ci occupiamo del tutto o ci occupiamo poco. E quindi Domenico Quirico, che della Stampa è l'inviato di punta soprattutto nei luoghi appunto più dimenticati e anche più pericolosi: diamanti, armi e ribelli, il duello tra Mosca e Parigi per dominare il Centrafrica. Il paese al voto tra i disordini. Sullo sfondo la lotta per il controllo delle risorse. Il presidente della Repubblica Centrafricana Touadéra tradisce la Francia con Putin e cerca la riconferma. L'Africa è sicuramente un continente gigantesco dove ma soprattutto fatto di tantissimi paesi, e ogni paese ha la sua storia e i suoi problemi e le sue speranze. E sapete anche che nel grande scacchiere geopolitico la Cina negli ultimi 10-15 anni Cina che ha forse l'unico vero tallone d'Achille della Cina è quello di avere poche materie prime, se le procura soprattutto in Africa, e da qui anche le contromosse per esempio della Russia. E sempre sulla Stampa un approfondimento sul 2021: che cosa leggeremo? L'anno dei grandi ritorni, riecco Boccaccio e Orwell, naturalmente ripubblicati, e poi Emmanuel Carrère, lo scrittore francese, ma anche J.K. Rowling e moltissime altre novità. Vi segnalo, perché ieri in chiusura di rassegna stampa ho detto un'imprecisione, cioè che Marco Bellinelli gioca negli Stati Uniti. In realtà Marco Bellinelli, l'atleta di pallacanestro, è tornato in Italia, è tornato a Bologna dagli Stati Uniti, e c'è un approfondimento appunto su il suo cammino verso la forma fisica migliore. Lo trovate sulla Stampa di oggi. Bellinelli è ancora lontano dalla forma NBA, la Virtus si deve attendere all'Olimpia, quindi anche la cronaca appunto di una delle partite degli eventi sportivi di ieri. Ultima segnalazione prima di un altro aggiornamento sulla viabilità: intervista sul Messaggero a Massimo Andreoni, capo del reparto di malattie infettive all'Università Tor Vergata, che dice: obbligare la profilassi per chi opera nell'RSA. Questo è un tema di cui ci occuperemo sicuramente nei prossimi giorni, cioè i Novax a vario titolo. E visto che abbiamo detto che in Italia si è data la priorità a chi lavora negli ospedali, a chi lavora nell'RSA, e ci sono notizie di persone che lavorando nell'RSA si rifiutano di farsi vaccinare, appunto dice Massimo Andreoni, chi si rifiuta dovrebbe cambiare mestiere. Non è il primo medico a dirlo, però di fatto in Italia l'obbligo vaccinale non esiste appunto per gli operatori sanitari. Ma ci lasciamo e ci ritroviamo subito dopo con altre segnalazioni dai quotidiani italiani. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine del Messaggero e vi segnalo nella parte dove anche qui si approfondiscono gli effetti della pandemia, un focus firmato da Maria Latella, che ovviamente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, magari qualcuno l'ha sentita anche ieri nella sua trasmissione della domenica Nessuna Perfetta o nel caffè alle 10. Lei si concentra sulla famiglia e mi ha fatto effetto, perché oggi L'Avvenire non è in edicola, non è mai in edicola il lunedì, ma mi hanno fatto molto effetto le parole del Papa, che ha parlato della famiglia ieri e di come se si litiga bisognerebbe chiedere scusa entro la giornata. E mi è sembrato, come sempre nelle parole di Papa Francesco, una cosa tanto semplice quanto vera. Perché in effetti, insomma, se ci si è offesi a vicenda, diciamo così, più si tarda a chiedersi scusa, più le tossine di quelle offese restano in circolazione. E su questi affetti stabili, naturalmente anche sulla famiglia nel senso migliore del termine, si concentra Maria Latella. La lezione è accelerata sugli affetti stabili e veri. Abbiamo capito nelle difficoltà i nostri punti di riferimento. Sul Messaggero forse trovate l'approfondimento più ampio, anche forse per così vicinanza alle fonti, possiamo dire, sulla manovra e quindi le misure del governo, quello che sappiamo finora, quello che è passato ieri alla Camera, vedremo poi oggi l'esame al Senato. Assegno per i figli, super bonus 110%, lo che è la manovra, il via libera dalla Camera, al Senato un passaggio solo formale, provvedimento da 40 miliardi tra fondi Unione Europea e micro interventi. E vi preannuncio che un confronto tra questa manovra e la stimulus bill, che abbiamo detto appunto americana, Donald Trump ha firmato, cercheremo di farlo domani a 24 mattino, perché non è che l'Italia sia l'unico paese che fa queste manovre dove appunto ci sono tante micro misure, forse da noi diciamo si esagera un po'. Dal Giorno vi segnalo un approfondimento su quota 100 che chi ha seguito la rassegna stampa di ieri o ha letto il Sole 24 Ore di ieri, era appunto l'apertura del Sole 24 Ore di ieri. L'addio a quota 100 spinge il grande esodo. Perché? Perché il 2021 sarà l'ultimo anno per l'anticipo pensionistico. Quota 100 permette appunto di andare in pensione in modo anticipato. 700.000 persone potrebbero decidere di uscire, complice la crisi Covid. Dalla Verità vi segnalo un'intervista a Massimo Cacciari di Alessandro Rico, che dice: il recovery plan di Conte è aria fritta. Sono parecchi giorni che lo dice in tutte le occasioni in cui può, e qui naturalmente dettaglia anche, perché poi fa anche delle proposte. Massimo Cacciari non è soltanto, diciamo, critico. E dice: gli italiani temono più la crisi del Covid, però i giornali intervistano solo virologi, fanno terrorismo con i bollettini di guerra. Se l'Unione Europea boccia il piano per la ripresa, il governo cade, ma non si vota, arriverà Draghi, altro nome che ricorre sempre. Sempre dalla Verità vi segnalo un approfondimento di Silviana De Mari su uno dei libri che non dico di sapere a memoria, ma quasi, che è il libro di Carlo Maria Cipolla, economista scomparso da anni. Questo suo libretto era nato con un divertissement, un regalo che aveva fatto agli amici, lo avevano talmente apprezzato che poi è diventato un libro pubblicato dal Mulino ed è di fatto un long seller. Contiene, in modo scherzoso ma non troppo, quelle che per Carlo Maria Cipolla erano le leggi della stupidità umana. E Silvana De Mari le ricorda a tutti i lettori della Verità, ma lo fa in modo molto anche approfondito, le quattro regole d'oro contro la stupidità. Scrive Silvana De Mari: a chiunque, anche ai più intelligenti, è capitato di compiere qualche sciocchezza. Succede quando la parte emotiva prevale sulla ragione, come nel caso di Napoleone, che aggredì la Russia solo per diventare il più grande conquistatore della storia, e sappiamo che non gli andò poi tanto bene. E a proposito di parte emotiva, molto interessante una recensione che trovate sul Messaggero su un libro di Vincenzo Russo che si intitola Neuroscienze a tavola. Ecco perché noi mangiamo con il cervello. E siccome credo chi più chi meno è reduce da grandi cene di Natale o di cene a base di avanzi di San Silvestro, insomma, questo tema di come affrontiamo il cibo, che sia buono o cattivo, con quale e quanto ci influenzi lo stato d'animo quando lo affrontiamo, quando pensiamo al cibo, più o meno credo riguardi tutti. A proposito di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, al di là appunto il giornale, come qualsiasi quotidiano italiano, perché la notizia è arrivata veramente quando i quotidiani erano strachiusi, cioè verso le 2:30, le 3 di notte nostra, quindi da una parte il giornale scrive: l'ultima rivolta di Trump non firma il piano di aiuti, poi in realtà lo sappiamo, lo ha firmato, ma c'è anche un approfondimento di Massimo Veronese su un altro tema di cui abbiamo parlato peraltro settimana scorsa in Effetto Mondo, che è quello di questi pardons, cioè i provvedimenti di grazia che i presidenti fanno, in particolare appunto nell'ultimissima parte del loro mandato. E Massimo Veronese ricorda ricche terroriste, disertori, religiosi poligami, tutti perdonati dai presidenti prima di lasciare. Ford graziò Nixon, Reagan gola profonda che lo incastrò. Nelle indulgenze presidenziali c'è di tutto: spie, pelle rosse, schiavisti e futuri divi del cinema. Dalle pagine di Economia del Giornale invece un approfondimento su un altro tema che credo ci accompagnerà non solo nel 2021 ma chissà per quanti anni prossimi, ed è quello dell'auto elettrica. I big dell'auto sfidano Tesla, l'azienda di Elon Musk. Le mosse di Apple in particolare, alla quale peraltro Elon Musk qualche giorno fa al Wall Street Journal aveva confessato di aver tentato di vendere Tesla, ma Apple vuole fare da sé, e Huawei, il colosso cinese. Il veicolo della mela, forse già nel 2021, da Volkswagen più investimenti, mentre Mr. Toyota boccia l'auto elettrica. Sempre dalle pagine del Giornale, molto interessante, di Angelo Allegri: Capodanno l'abbiamo inventato noi, visto che appunto adesso, archiviato il Natale, Santo Stefano, abbiamo davanti a noi quest'altro appuntamento di Capodanno. C'è una creazione tutta italiana di cui non si parla mai: il calendario. Eppure le idee e i concetti partiti dalla penisola hanno definito il modo in cui l'uomo misura il tempo. Altro tema estremamente affascinante. Poi un ricordo anche abbastanza recente, una cosa che è successa appena un anno fa, ma forse questo 2020 ha un po' così, ci ha creato dei problemi di memoria nel breve termine. Lo racconta Claudio De Carli a pagina 29 del Giornale: l'amichevole da record con 16 morti sul campo. È accaduto in Messico un anno fa e viene ricordato come il massacro di San Silvestro. I narcos organizzano una partita in prigione per fuggire e poi sacrificano i calciatori sul campo. Appunto, restano in quel pomeriggio del 31 dicembre del 2019, restano sul campo del penitenziario di Sieneguillas 16 detenuti fra sparati e pugnalati, praticamente una squadra e mezzo, e 6 feriti gravi. La storia ve la racconta appunto Claudio De Carli sul Giornale. Vi dicevo l'intervista a Brunello Cucinelli, ma tra mezz'oretta circa lo avremo qui ospite da noi sul Fatto Quotidiano, ad Antonello Caporale. Il Kashmir tornerà presto, intanto regalo un po' del mio lusso, e ci spiegherà poi appunto un po' meglio che cosa intende. Un approfondimento del Fatto su uno dei tanti settori molto colpiti da questa pandemia, forse tra i più colpiti in assoluto, che è quello dello spettacolo, inteso nel senso più ampio possibile. Leonardo Bison, pagina 12 del Fatto Quotidiano: niente rinnovi né futuro, il Natale nero dei museali, quindi diciamo cultura e spettacolo. Da Ales al Colosseo, anche la SPA del Ministero dei Beni Culturali non prolunga i contratti, mancano i piani a lungo termine, la cultura potrebbe rimanere chiusa. E poi però, sempre sul Fatto Quotidiano, un lungo articolo di Tommaso Montanari, che è storico dell'arte, che come non è la prima volta che lo fa, si scaglia contro una sorta di privatizzazione di un bene culturale, che poi non è una privatizzazione ma è un modo per renderlo, diciamo, per far sì che renda di più, non è una parolaccia, ed è il Colosseo. L'affare milionario, l'arena apre a eventi pubblici. Vi sembra uno scandalo? A me no, soprattutto appunto in un periodo come questo, dove chiunque lavori nel mondo della cultura ha gravi difficoltà. E per concludere però con uno sguardo veramente di speranza, i nostri giovanissimi, Libero fa due interviste, uno a Diego Ciccarelli e l'altro a Viviana La Banca, che sono tra i migliori studenti del 2020. Diego Ciccarelli dice: mi sono reinventato, e definisce il 2020 un anno da favola. All'inizio tanto stress, ma il virus ci ha messo alla prova, la maturità è stata troppo facile. E invece Viviana La Banca dice: la scuola a distanza ci ha insegnato di più, abbiamo coltivato il senso senso di responsabilità, basta dipingerci come la generazione sbagliata. A questo punto però noi ci lasciamo, lascio la parola al GR delle 8, grazie comunque già fin d'ora a Pietro Lacorte in regia, e come vi dicevo dopo il GR delle 8 ci ritroviamo per un approfondimento che per questa prima giornata di mia conduzione di 24 mattino ho scelto un terreno che mi rende un po' più sicura, perché sono 20 anni che me ne occupo, che è quello dell'economia della moda. Ah, quindi a tra poco dopo il GR.